Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, ci siamo! Eccoci, oggi sono notizie grandissime. Comunque, prima voglio dirti che, vabbè, San Paolo Michi, vedo che continuano ad esserci polemiche sui santi. Alcuni pensano io voglio prendere in giro la Chiesa Cattolica. No, io proprio nel rispetto, così sapete a chi fare gli auguri. San Paolo Michi, tra l'altro, è il primo giapponese accolto in un ordine cattolico, gesuita, a metà del 500, quando erano appena arrivati i primi cristiani. E naturalmente il signore della guerra che aveva autorizzato, lo shogun che aveva autorizzato i cristiani e il loro proselitismo, cambia idea e quindi crocifigge lui e i primi santi giapponesi. Auguri anche a chi si chiama Amando, Antomano. Amando. Amando, Sant'Amando. Oggi un gerundio, insomma. Sì, esattamente. Un santo, un gerundio. Minolfo. Ina, re del Wessex, e Vedasto, che poi sarebbe Gastone. Vedasto. Sì, oggi che voglio ricordare di tutte le cose di oggi, essenzialmente una che nel 2012 faceva il giubileo di diamante la regina Elisabetta II. All'epoca sono i 60 anni di regno e c'era ancora la regina Vittoria con cui condivideva il primato, se non che la regina Vittoria si fermò poi a 63 anni, 7 mesi e 2 giorni e naturalmente poi dovette mollare perché arrivò la morte. E invece adesso siamo al 65esimo anniversario oggi dell'incoronazione di Elisabetta II, che continua a godere di ottima vita e lunga vita. E voglio ricordarti, come già ti hanno ricordato i tuoi ascoltatori, ho visto gli sms, che oggi nasceva il vostro grande idolo rastafariano, convinto che El Selassie fosse un profeta, Robert Nesta Marley. Mi fermo qua, detto perché Bob, ecco, detto Bob. Bob, va bene, va mi bene. Fermo qua. Allora, voglio dirti, guarda, che secondo me la prima notizia a cominciare è Veltroni candidato. No, Veltroni candidato. Veltroni. Perché il mio Torino africana. Di Cairo è tra i supporter, mentre vedo che il vostro Milan, Inter, eccetera, mancano tutti qua. Non vogliono Veltroni. Siete per Veltroni. Questo. Ma Veltroni, io quando dicono è candidato, penso sempre, non so, alla presidenza di un paese africano, perché l'aveva detto lui, ti ricordi, vado in adesso Africa. Partiva la battuta, però no. Sì, non l'ha mai fatto. E quindi ha scelto un ambiente forse, però comunque ci sono 13 club, sono club minori per così dire, il Crotone, l'Empoli, Genoa, il Palermo, il Pescara, il Sassuolo, ci metto anche Torino, quindi sono autocritico come vedi, mentre invece i grandi club, cioè Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio, i padroni veri del calcio italiano, non si sa come la penseranno, però in realtà pare che Inter e Roma vogliono appoggiare Walter Veltroni, presidente della Lega Calcio. Presidente della Lega Calcio. Così è una candidatura, sembra molto seria. Tu lo sai che lui è un fottuto juventino. Scusa, no, mi è sfuggita una parola prima di juventino. No, nel senso che è appassionato, non ne ha mai fatto misto. Ho sentito in quel bene, senso detto, lì, è un appassionato in quel juventino. Senso lì. No, perché avevo capito... Va bene, allora devo ti far dire come Repubblica, dice innamorato della Juve. Fottuto juventino, dalla mia bocca è ovvio che il torinista è un grande riconoscimento per chi tifa con grande passione. Sì, no, un grandissimo tifoso della Juve. È un grandissimo tifoso storico della Juve. E però la Juve non l'appoggia. Vedi? Fino a questo momento, fino a questo momento. Non lo appoggia. Non si sa. Certo, è singolare, eh? Walter Veltroni. Non finisce mai la carriera di un politico, visto il suo ottimo successo in televisione recente. Però io credo che... Ti è venuta la tosse, per la Juve. Io sono stato molto critico sulla legge ordinamentale sullo sport che porta alla fine di Veltroni, che ha la radice di alcuni errori clamorosi come consentire alle squadre di essere quotate senza asset fisici, cioè gli stadi e così via, e anche di aver perpetrato la possibilità per le società di, per così dire, aggirare il codice civile, non pagare nei tempi giusti i contributi dei dipendenti. Però ecco, magari si è ravveduto. Magari si è ravveduto. Chi lo sa poi se sarà lui il presidente della Lega. Però è una notizia che ti ha colpito. È la seconda notizia che mi ha colpito, perché poi andiamo su altro, eccetera. Sono le 994 nomine di De Luca. L'ho vista anch'io. 994 994. Guarda che qua De Luca tra poco condurrà, perché abbiamo tutti gli spezzoni, potrebbe 994. Potremmo utilizzare 994 nomine di De Luca, ma è lì da tutti poco. Tutti zitti. Dai. Ecco, mi taccio. Ecco, come ha detto Merza prima. Abbiamo dei De Luca ogni tanto, dei siluri di De Luca che 994. Dilettantismo. Ecco. Il tuo è professionismo vero, caro presidente, cioè, in così pochi mesi 994. Vabbè. Cioè, beh, se in così mesi, pochi mesi ne ha fatti 994, la domanda mia, tu che sei esperto di me, di queste cose, ma quanti milioni di nominati può fare un presidente di regione? Circo equestre. Che credo era riferito a noi, allora, che ti risponde lui direttamente. No, io lo so che dall'alto veglia sulle nostre vite, esatto. Tutto ma può. Che meraviglia, esatto. Va bene, dai. Allora, però, ha colpito il mondo, signori. Noi parliamo delle questioni, delle primarie, non primarie, elezioni, la Raggi, le polizze. Ne parleremo, perché ne parleremo. Per carità, però, qui il mondo. Si chiede, per esempio, se lo chiede Prodi, ma dovesse arrivare Marine Le Pen in Francia, da una parte c'è Trump che dice male Europa, non so, adesso c'è Marine Le Pen che si candida dicendo se andiamo noi al potere fuori dall'Unione Europea, fuori dall'euro, fuori dalla NATO. Tasse sui lavoratori stranieri in Francia, tasse su chi detiene denari fuori dalla Francia. Senti da qua. Elle n'a tenu aucune de ses promesses et tout particulièrement sur la prospérité et sur la sécurité et pire. Elle nous a mis sous tutelle. No, ma l'Europa che dice che non ha ottenuto nulla sulla sicurezza, e quindi dice se andiamo noi al potere fuori dall'Europa. Prima Oscar mi diceva forse Marine Le Pen di solito è un po' più sfumata nel linguaggio. Io sono rimasto colpito perché evidentemente l'intervento il giorno prima a Lione di Macron, che a questo punto diventa l'unico candidato, che Fiona è in caduta verticale, è finito. Quindi questo il Macron senza partito, con un suo movimento, En Marche, che ha fatto un intervento lungo e sorprendendo molti perché alto, no? Citando Victor Hugo, la grande Francia del ed essendo la risposta alla semplificazione brutale del populismo. Lei però si è preoccupata perché nei sondaggi è andato benissimo Macron e ha ripremuto il piede sulla natura secca del fronte nazionale, cioè basta con tutto, Europa, euro. Cioè su quello che viene tradotto con populismo, no? Infatti Prodi dice non capisco perché Trump e la Le Pen non si siano ancora sposati, ovviamente utilizza questa immagine per dire che c'è un attacco all'Europa o dall'esterno, ma anche dall'interno. Tardo un'ipotesi perché Marine Le Pen non accetterebbe mai il ruolo di soprammobile che Trump lascia alle sue donne, sì. Quindi... Soprammobile che però è ricomparsa, hai visto? Melania Trump dopo 14 anni è stata sgelata dalla Casa Bianca e riesibita. Da 14 anni, da 14 giorni, no? Ho detto 14 anni. Vedi 14 che anche giorni. Melania deve avere a che ridire del tipo di rapporto a cui la vorrebbe, cioè da soprammobile a cui forse Trump la vorrebbe lasciare. Comunque, di sicuro Marine Le Pen non è un soprammobile. Però vedremo, insomma, vedremo perché la domanda è che già si fanno alcuni giornali internazionali e fa terrore solo dirla. Se il terrorismo gli vuole dare una mano, basta che fa un attentato in Francia, il tema della sicurezza va alle stelle. È chiaro che lì Marine Le Pen i muti li ramazza, per così dire. È triste dire pensare che un però se qualche potenza internazionale vuole metterci lo zampino nelle azioni francesi, non parlo solo dei jihadisti, e questo in questo mondo diciamo molto a maremoto, per così dire, consente delle improprie influenze esercitate con la violenza, come sempre. Allora, le 8:27 minuti, se volete chiamarci 800 24 00 24, parliamo, ma sì, anche se volete, di populismi, di Europa, di fuori dall'euro, fuori dall'Unione Europea, potrebbe essere una ricetta che anche in Italia, molti dicono è la ricetta che andrebbe seguita. Del resto oggi su Corriere Economia c'è un articolo di Minenna, l'ex assessore al bilancio per poco a Roma, che esplicitamente e nel paludatissimo supplemento del Corriere della Sera dice dobbiamo uscire, spiega come e dice inutile far finta di non vedere, tanto per dirti, perché poi oramai anche nelle sedi più elevate se ne parla. E ovviamente parliamo anche di Roma, della vicenda Raggi. Se volete, oggi sul Corriere della Sera dice: sono tutti con me, il movimento non è per niente diviso, si va avanti. D'altronde Grillo l'ha abbastanza blindata, questa cosa delle polizze è stato un attacco vergognoso della stampa. Bah. Forse Querelo Romeo, cioè colui che... E lo querelassero, perché altrimenti la tesi che Romeo bizzarramente si mette a intestare polizze così, cioè, non mi sembra molto chiarito. Forse lo farà, dice, dobbiamo sentire i legali. Comunque, ne vogliamo discutere l'attualità internazionale e attuale. Salutiamo Elisa Calessi, che è cronista parlamentare di Libero, segue la politica. Buongiorno. Elisa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Salutiamo anche Luca Telese, collega che tra l'altro oggi parte con una nuova avventura. Luca, ciao, buongiorno. Buongiorno, tutti sintonizzati sulla 7 in prima serata. Già da adesso, no. Ha detto in prima serata, è chiaro, bianco e nero. Comunque viva Cairo, sempre. Viva Cairo. Oh, qua abbiamo un Granata, abbiamo uno che lavora con Cairo, quindi abbiamo... No, scusa, e poi il nostro club sostiene Veltroni per la Lega, esatto. Che è? Caro mio. Veltroni chi è? Che io ventino, fottuto io ventino, caro mio. Ecco, ma è inutile, no, le cose oggettive, sai. Poi ti dirò, sai, io a differenza di voi, siccome ho il cuore contento anche quando non faccio i rigori di Torino di segno, per me l'evento del fine settimana, quello sportivo, era Super Bowl, cioè New England Patriots contro Atlanta Falcons. Ecco, sai che il nostro Peter Bescapè oggi non è in regia perché il Super Bowl per lui è una religione, quindi quando c'è il Super Bowl... Persino il Papa ci ha mandato, il Papa, leggendo i manifesti affissi a Roma su di lui, poi ha mandato un messaggio al Super Bowl. Però insomma parliamo di cose. Allora Luca, intanto questa Europa, la ricetta, no, che viene condita come populista del usciamo dall'euro, dell'Unione Europea, usciamo, che però adesso sentiamo anche in Francia, è un populismo di basso livello o è un qualcosa su cui si misurerà la prossima campagna elettorale, quando verrà? Guarda, trovo mio derubricare tutto quello che è critica a questo equilibrio dell'Europa come populismo o come sfascia sistema, cioè che l'Europa così non possa continuare è quello che direbbero i maestri europeisti, che direbbe Spinelli, che direbbe chiunque. Per di più c'è un trattato che dice che non si può fare quello che sta facendo la Germania, cioè avere un surplus di esportazioni nei confronti dei paesi membri, quindi basterebbe solo applicare le regole dell'Europa, non solo il 3% per gli sfigati puzzoni come noi, ma anche quello per chi esagera e chi è troppo virtuoso nell'avanzo della bilancia. Sì, non tutti le rispettiamo le regole, sai che sul debito pubblico noi potremmo allora, come dire, essere considerati ben al di fuori, però... No, ma vuol dire, il problema che è sotto gli occhi di tutti è che stiamo pagando più di quello che possiamo pagare, che la ricetta ammazza il cavallo, fosse giusto o sbagliata, non può continuare ad essere questo. Cioè dici la ricetta di averci fatto troppo deficit e debito e di volerne fare di più, se uno ti segue, no? Quella dici, ma che no, è quella, ma che ci ammazza. No, dici che non è quella che ci ammazza. Basterebbe dire di togliere gli investimenti dalla spesa, basterebbe dire questo, perché è ovvio che quando spendi per fare un investimento per produrre ricchezza e posto di lavoro è diverso se spendi per fare gli 80, 90, 100 euro la paghetta. Tutto lì. Comunque su questo si misurerà la prossima campagna elettorale, sì. Mi sembra di capire. Comunque è vero, in ogni grande elezione europea ormai quello è il tema, esatto. Ha ragione Luca, da questo punto di vista sì. Su questo Elisa, perché le forze saranno divise su questo, poi parliamo ovviamente di Roma, parliamo di capire quando e se si voterà a giugno. Oggi Repubblica dice che dalle anticipazioni della consulta che motiverà la decisione per cui ha bocciato l'Italicum sarà un'ennesima mazzata a chi vuole andare a votare in maniera anticipata. Però Elisa, è questo il tema su cui ci giocheremo molto, no? L'Europa, come la percepiamo, ne vogliamo star dentro, ne vogliamo uscire? Non c'è dubbio che è questo per colpa di come in questi ultimi 20 anni i dirigenti dei paesi europei hanno come dire, interpretato l'Europa. Però il problema vero, io condivido molte delle cose che diceva Luca, un problema è che non vedo chiara una ricetta alternativa, cioè la ricetta di Le Pen a me non convince, questo è il punto, cioè mi convince la diagnosi ma meno la ricetta. Che ci sia un problema nel fatto che l'Europa è stata interpretata in modo formalistico guardando semplicemente a problemi di bilancio è indubbio, che ci sia un problema soprattutto secondo me democratico ancora più prima che economico e finanziario. In Europa c'è un problema democratico, e questo è il motivo perché l'Europa è tanto ostile adesso alla gente, comunque anche alla gente che non sta lì a leggere i giornali, perché è vista come una cosa che non ha nulla a che fare con non solo con i problemi dei cittadini, ma che, come dire, non ha una legittimazione democratica. E questo è il grosso, secondo me, problema dell'Europa. Detto questo, io faccio fatica a vedere, come dicevo, una ricetta alternativa. Sì, è un cioè, sentire più usciamo, facciamo, ma poi uno che poi fa... Poi per far cosa, perché se noi poi guardiamo a quello che sta succedendo fuori dal mondo, con gli Stati Uniti che dialogano direttamente con la Cina e la Russia... cioè noi cosa facciamo? Cioè rischiamo di fare noi rischiamo di spaccarci scolare. Di essere nani che non contano niente, questo non c'è dubbio. Sì, però perché... posso dire, a me sì. sembra incredibile che tutta questa nostra discussione avviene intorno a un parametro, il 3%. Ma no, non è così. È stato fissato. Ma quale 3%? Oscuro, ma quando l'abbiamo rispettato? Funzionario della presidenza di Mitterrand, pensate, siamo un'altra era geologica. Perché gli chiesero di creare un algoritmo, lui gli veniva fuori 2,9, arrotondò a 3, poi questo parametro dalla Francia fu incorporato nel trattato europeo e quindi per questo il numero è questo. Non sì, c'è ma un per motivo questo razionale. Sembra che sia una follia, invece il motivo razionale c'è perché viene da una semplice formuletta per la quale la crescita nominale, cioè quella reale più inflazione dell'epoca media, era quella e per non far crescere oltre il debito ma farlo convergere verso il 60% veniva quel numeretto, ma non ne è appesa quella la faccenda. La faccenda è che in Unione Europea c'è da una parte un nucleo di paesi che vorrebbe fare più produttività, più serietà, eccetera, e un altro nucleo di paesi, noi siamo in questo secondo, che invece sogna di tornare agli anni 70, quando andavamo col cappello in mano, un mese sì, un anno no, a impegnare con le riserve auree per chiedere i prestiti al Fondo Monetario. Quella è la liretta. A me dispiace dirlo, cicale, a me dispiace dirlo, liretta, Luca. Ma no, ma come no? Ma come no? E in questo si unisce la sinistra, lo capisco, quella che dice non mi riconosco nei parametri della convergenza di rigore di produttività. Lo capisco perché c'è una storia dietro. È così credibile che la destra è diventata questa roba qua in Italia, che dice le stesse cose della sinistra estrema. Ma tu avrai incontrato come me decine di sindaci che avevano il avanzi pazzeschi, centinaia che di erano euro, che erano abituati a, a buttare un fracco di soldi perché avevano il vincolo di cassa. Ma il vincolo di cassa è perché abbiamo il 50% di spesa pubblica che non va in welfare, perché in welfare ci va la metà, poco più della metà, il resto invece siamo abituati a vivere con le 994 nomine di De Luca in pochi mesi, capisci? Quella patologia è quella là, solo che invece... Vabbè, ma quello è De Luca, non no, è la spesa no, no, pubblica, io ti sto parlando del lui mica se le inventa le nomine che deve fare. Sto parlando di comuni virtuosi, comuni veneti con soldi che non possono usare per fare spendiamoli il mio spendiamoli. Questa follia deve finire. Beh, però deve finire. Se i mercati ti ricorderanno il giorno in cui non ci sarà più Draghi che ti compra il debito ogni mese, i mercati ci riporteranno dove siamo. Questo dove eravamo negli anni 70. E per capire, Oscar, che insomma, se già il dibattito è questo nella trasmissione del lunedì, figurati in campagna elettorale, appunto, come si snoccioleranno. Sono d'accordo che l'euro fatto così non regge. Su questa ragione, Elisa, non è solo la politica, c'è una questione di deficit democratico. Luca non è che ha torto in questo. Dico solo che, siccome non si riesce ad andare avanti passo per passo, la risposta diventa: facciamo esplodere tutto. Esatto. In ogni caso, e poi la risposta che mi colpisce, sono d'accordo con Oscar Giannino, è che a destra, diciamo a destra destra, a sinistra sinistra, cioè anzi a sinistra e basta, cioè danno la stessa risposta, cioè c'è un ritorno a un'idea di super Stato che dovrebbe fare un super welfare, ma non si capisce con che soldi. Cioè l'Italia della liretta che noi rimpiangiamo è l'Italia che ha fatto 2.000 miliardi di debito. Ora, allora ce lo siamo potuti permettere perché venivamo dal boom economico, ma adesso con che soldi faremmo quello che allora si è fatto? È quello che non mi torna. La perplessità. Allora, però, dopo la pubblicità dobbiamo parlare anche un po' del caso di Roma per venire alle cose italiane. Litighiamo su Roma. Oh, litighiamo tra poco. Ma dai, discutiamo. Ma di Roma o di Roma o della Roma? Roma. No, o lo stadio della Roma. Roma. Della Roma, esatto. Di Roma. Della Roma, che non vincerà anche quest'anno lo scudetto. Cioè, così mettiamo. No, Luca, no. Non è che siamo pazzi, siamo in corsa, è arrivato. Siamo in corsa, bravo, bravo Luca. Bravo Luca. Mai mollare, mai su mollare. Anche il Torino, anche il Torino. No, a Torino no, però insomma, mai mollare. Chi sta su non deve mai mollare. Tra un attimo dopo la pubblicità state con noi. Immagino che quando domani, nelle prossime ore, quando le opposizioni le chiederanno formalmente se non è il caso di dimettersi, lei... Ma assolutamente, assolutamente no. È una vicenda che mi ha visto del tutto estranea e che peraltro è stata ricostruita anche in maniera molto fantasiosa. Non si dimette, Virginia Raggi, sindaco di Roma, oggi ribadisce anche al Corriere della Sera, tutto inventato, su mi hanno attaccato i giornali, su sta storia delle polizze... Beh, certo, poi c'è la vicenda invece dell'indagine per abuso d'ufficio, per la nomina del fratello di Marra, e su quella si vedrà, però Virginia Raggi che tiene dura. A me, devo dire, un pochino ha stupito, nel senso che non so cosa ne pensiate, Oscar, Luca Telese, Elisa Calessi, il fatto che Beppe Grillo l'abbia proprio blindata, cioè in maniera chi sta con Virginia Raggi sta col movimento e chi non sta con Virginia Raggi sta fuori. Non so, Luca, ti ha stupito questa blindatura di Beppe Grillo? Ma guarda, il problema è che quello che è accaduto alla Raggi è stato il caso di un biscotto mediatico su cui ci dovremmo interrogare tutti. Questa vicenda delle polizze, insisto. Quindi ha fatto bene Grillo a reagire su questo. Io non condivido quasi nulla con Grillo mai nella vita, non ho mai votato la Raggi mentre tutti i miei amici un'idea o dell'altra correvano a votarla, però sulle polizze è accaduto qualcosa di cui ci dovremmo vergognare. E se vuoi te lo spiego anche perché. Sì. Allora, questo dettaglio i PM e gli inquirenti sapevano già giovedì che era una panzana, no? Le polizze non erano reversibili, non erano un modo illecito di dare una provvista di denaro a una tangente, non erano non c'era un reato. Di Al Capone e neanche di Prenti. Però chiamano i giornalisti alle 6:30 di sera, costruiscono un teatro mediatico straordinario interrogandola come una ladra, come se fosse Tommaso Buscetta in una sede che sembra il supercarcere di massima sicurezza, costruiscono questa attesa e mollano un osso, che loro sanno, conoscono già la verità. Mollano invece il mezzo osso, dicono queste polizze stiamo indagando, non sappiamo bene cosa siano, forse sono soldi neri, clandestini, sono la partita di giro. E invece per tu dici già sapevano, infatti il giorno dopo hanno detto perché non c'è, e c'è la prova scientifica, già qualcosa non tornava, perché è ovvio che se tu fai un interrogatorio a uno sai già da dove vengono quei soldi. Lasciano correre i freni della calunnia a mezzo stampa, di cui noi purtroppo siamo stati noi media protagonisti. Il giorno dopo alle 12 esatte, come se nulla fosse, no, i soldi sono di Romeo, sono suoi, non c'è niente di illegittimo, la Raggi non era beneficiaria di queste polizze. Allora io un po' rimango stupito quando vedo che Loppi è stato interrogato in località segreta con discrezione, quando vedo che su una storia di conflitto di interessi che poteva essere simile ma molto più grave, come quella dell'affitto che Carrai pagava a Renzi per la sua casa di Firenze, non siamo neanche arrivati ai giornali, mentre qui, e ripeto, non sono un elettore del 5 Stelle, forse la Raggi sarà sulle palle per altri motivi, lei viene torchiata, portata su tutte le prime pagine e menata. Vabbè, come una disperata. Capito Oscar, insomma il metodo no, siccome, adesso, siccome il problema posto a Luca è un problema molto serio, perché io per primo, quando ho visto sui giornali la cosa che arrivava all'interrogatorio e ci siamo interrogati a lungo che tipo di polizza è, certo, abbiamo dovuto andare a vedere per quali c'era l'obbligo rafforzato di beneficiario, ci sono quelle reversibili, è una forma di capitale. Allora, scoprire poi la sera della stessa giornata, a me ha posto un problema anche con la gente che mi aveva scritto, perché io poi mi ero occupato di particolari tecnici, però certo, scoprire in serata che era tutto chiaro, a me ha posto un enorme problema. Cioè io mi sono sentito un pezzo di cretino per il mestiere che faccio, cioè punto numero uno. Punto numero due, se è così, può essere che qualcosa ci sfugga ancora, ma se è così, la dinamica che conosciamo allo stato attuale è questa. È roba che il CSM dovrebbe intervenire. o no, Luca? Cioè, il fatto che l'abbiano detto boh. E poi no, perché a un certo punto non è che possono dire è uscita dalla procura o da chi la notizia. Non è uscita dalla procura, è come sempre è uscito dal seno del Signore. Gesù bambino. Non lo so, io a dire la verità io ho un fortissimo malessere, nel senso che con un mucchio di persone ho scritto tutto il giorno perché mi accusavano di voler fomentare cose. Quando ho visto il chiarimento della procura, sai, di fronte a tutti quelli a cui avevo risposto dicendo non è vero, io mi occupo delle questioni tecniche, approfondire che tipo di polizza può essere, qual è l'obbligo di identificazione, eccetera, tutti mi hanno risposto cretino, hai visto? E io dovevo dire, prendo atto che non sono un cretino, ma però sono andato avanti su una pista di cui abbiamo saputo poi in poche ore che era fuffa. Però questa cosa si potrebbe ritorcere, diciamo, a favore in questo, a questo punto. Ma perché... io credo di no, sai perché? Però, perché i no. primi poi a chiedere, visto che il Movimento 5 Stelle è molto spaccato a Roma, i primi a dare adito a credere che ci fosse una grande macchinazione sono stati i 5 Stelle, sì. Cioè no, ma io dico su che loro non sono strutturati, sì. E quindi una botta così ti destabilizza un intero movimento. Però su una cosa, cioè, Raggi cada sulle buche, cada sulla refezione scolastica, sull'ATAC, ma non può ma non su questa cosa. No, certo. Provano a farci credere che ci fosse dietro la stessa. No, ma io vorrei coinvolgere su questa Elisa Calessi, con tutto che io Romeo non l'ho capito, Marra non lo capisco, certo, cioè, non è che io sto dicendo. Però adesso paradossalmente Elisa, l'aspetto dell'inchiesta che invece è in piedi, quella le accuse, abuso d'ufficio, l'aver messo il fratello, passa in secondo piano di fronte a questa cosa della polizza che è smontata e si è gonfiata come un soufflé. Sì, allora, intanto lei è stata torchiata 7 ore non sulle polizze, ma appunto. Su un'indagine che è molto in corso. Oggi sul Corriere della Sera viene pubblicata la circolare, questa famosa circolare che lei ha firmato. Sì, sul Messaggero, credo. Da, sì. Anche sul Corriere, in cui si conferisce questo nuovo incarico al fratello di Marra. Lei esatto. Per questa vicenda è indagata, poi vedremo come andrà avanti l'indagine, però è indagata per abuso d'ufficio e falso. Cioè non, e non da questo documento cosa. Si evincerebbe che lei era al corrente di tutto. Esatto, che perché lei finora ha detto, io non sapevo che ci fosse stato un aumento dello stipendio, insomma lei diceva di non sapere niente, invece da questo documento c'è la sua firma, quindi o non ha letto e comunque la cosa è grave, oppure ha detto una bugia. In ogni caso lei è indagata per questo, quindi no, certo. Non è che sei tutto sgranato. No, beh, sappiamo perché cosa è indagata, ma quel giorno la regia è stata che il titolo doveva essere le polizze sono una tangente occulta. Dopodiché sulle polizze io vorrei dire questo, è chiaro che non c'è un reato, benissimo, io però non ho ancora capito, cioè, ma proprio non lo dico in modo polemico, veramente. Perché gli avesse intestato perché, queste polizze? Cioè, perché il tuo capo segreteria, cioè quello che diventerà il tuo capo segreteria, 6 mesi prima che tu diventi sindaco, ti intesta delle polizze senza dirtelo, perché questa è la versione. Questa effettivamente è una domanda alla quale non esiste risposta. Come intesta altre polizze a finte figlie che non ha, altre cose che non dice, vuol dire che ha soldi e non sa cosa farsi. Dal gennaio 2016, quindi per un anno, lui è in tempo a fare la campagna elettorale per la Raggi, a diventare caposegreteria, a seguire i primi 7 mesi di governo della Raggi e mai gli dice che gli ha intestato una polizza. Cioè, a me questo sembra molto strano. Beh, certo. Come è strano che un dipendente comunale, questo è meno strano. Ah, quindi c'era mega tangente. Tu sei ancora. No, Luca. Si pone delle domande. Dico che non mi stupisce l'interesse degli inquirenti e anche l'interesse dei giornalisti per questo fatto, perché non è una cosa da poco. Cioè, è una cosa che tuttora a me non. No, diciamo, è una cosa anomala. Un altro anomalo, strana, ecco, quindi è giusto. Io qui credo che ci debba Oscar, che ormai questa cosa è suonata strana anche nel Movimento 5 Stelle. Infatti Luca ricorderà che all'inizio la versione che si dava dentro il movimento era che si trattasse di amore non corrisposto, cioè che lui avesse fatto questo regalo. Anche sì, questa è una tesi anche questa, impossibile. A Virginia Raggi, devo dire, hanno attribuito dici, no? Chissà quante relazioni a Virginia Raggi. Sì, ma soprattutto l'amante che vuol fare un regalo in polizza lo dice alla massa, no? Ma non so. Sentiamo Michele da Roma, un ascoltatore che ci chiama. Buongiorno Michele. Buongiorno dottor ecco. Giannino, sì, sono Michele Caruso, chiamo da Roma. Io vorrei intervenire sul caso Raggi. Secondo me c'è un accanimento mediatico nei confronti dell'avvocatessa sindaca da parte dei media e anche naturalmente nella lotta all'interno dell'alveo politico, anche naturalmente in seno alle anime del movimento pentastellato. Secondo me sono tante volte un po', come dire, faziose e anche inventate, atte soltanto a destabilizzare il momento particolare che già è particolarmente, vorrei dire, no? Molto confusionario a Roma, e quindi sono faziose da parte dei giornalisti e da parte dei politici per naturalmente tornare un po' indietro, ormai da tanto tempo, come nel caso Marino, per cercare di tornare a nuove elezioni e quindi nel qual caso naturalmente si troverebbe ancora uno scenario, sappiamo Mafia Capitale. E concludo dicendo, dottor Giannino, purtroppo adesso Lombardio, altro il caso Poli, Zemarra e così via, la Raggi non è che può fare più di tanto, perché anche se giovani naturalmente sono capaci, anche se non con tanta esperienza, se non si ripulisce le acque di un mare, naturalmente anche i pesci nuovi rimarranno naturalmente inquinati delle acque che sono naturalmente molto molto sporche. Va bene, ma si figuri, se mi avrà sentito chiara come un maglio su quello che ha trovato in eredità la Raggi. Detto questo, le procedure di nomina, Marra, da dove viene, cosa esprime, è così, presentato da Romeo e così via, non stiamo parlando di un metodo scelto, nuovo, capisce? Nuovo, cioè, che dice, finalmente si volta pagina. Un conto è l'ingenuità o il fatto che sono problemi immani che richiedono competenze e approfondimento. Altro conto è proprio la nomina dei personaggi centrali intorno al sindaco. Ecco, su questo io la mia perplessità le mantengo. Dopodiché, ma mi dispiace, i magistrati ci hanno condotto su una falsa strada. Questo è di un impatto che nella mia testa, ripeto, ho fatto la figura di cretino verso centinaia e centinaia di persone con cui ho scritto. Guarda qua che chiedono, Luca, ma la tua trasmissione è l'ennesima due palle così sulla politica. No, fa una cosa diversa. Non parliamo di politica. Questa è la notizia del giorno. Del giorno. Di sentenze, di mode, di delitti, ma non parliamo di politici. Di questo tempo devo dire quasi una boccata d'aria. Una boccata d'aria, effettivamente. Dai, facciamo un pronostico da Elisa Calessi e Luca Telese. Si va a votare? Quando? Come? Perché? Luca? Ma io vedo la linea Renzi e il povero Renzi in una tale difficoltà umana, psicologica, un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, un giorno lo vedi con i carrelli e la spesa come se stesse facendo compre per un reggimento, un'altra volta con due ereditiere sulle piste da sci, ha detto che vuole il congresso, poi che non lo vuole, poi che lo vuole. Io vedo Renzi in grande difficoltà e penso che gli anticorpi del paese eviteranno le elezioni anticipate ad persona. Quindi si arriverà al 2018 secondo te? Beh, sai, persona, poi si dice sempre lo vuole Renzi, lo vuole la Lega, lo vuole il 5 Stelle, lo vogliono in tanti, non dai, è che... qui mo lo vuole Renzi, gli altri fanno un po' di ammuina, sappiamo tutti che la partita è quella. Va Quirinale bene. Contro Renzi. Quirinale Renzi, per ora 0-0. Elisa, il come finirà? Esatto, Elisa Calessi. Io al momento la vedo molto difficile. Adesso ci sarà un'altra botta con le motivazioni della consulta, dove ci sarà un ennesimo stop, cioè diranno no, bisogna fare una legge per armonizzare le due sistemi elettorali di Camera e Senato. Dopodiché l'unica possibilità vera, almeno così si dice, che nella cerchia, insomma, così di Renzi, che si vada alle elezioni, è che si complichi la trattativa con l'Europa sulla manovra correttiva, cioè lui in realtà spera su questo, perché se dovesse succedere, se si complicasse molto, allora a quel punto diventa il Lepenino. Vedi la politica italiana, su quali grandi scelte il Lepenino, capisci? La politica economica, le tasse degli italiani dipendono da questo. Va bene, dai, vi ringraziamo, noi ci troviamo domani, ciao.